Allora, i pericoli sono di vario genere. E intanto il pericolo più superficiale ma più diffuso è che il bambino si imbatta comunque in immagini o testi in internet che in qualche modo possono sconvolgere l'equilibrio raggiunto. Perché nei casi più estremi ovviamente c'è un grosso pericolo di pedopornografia perché diciamo, i pedofili si stanno ben organizzando in internet, spesso mettendo nei motori di ricerca il nome di un cartone animato o di un prodotto che è riferito ai bambini, magari si arriva a siti che non hanno proprio niente a che vedere con quel prodotto, ma sono pedopornografici. Questo però è il rischio maggiore, quindi lasciare il bambino davanti al computer che si possa imbattere in qualcuno in chat di soggetti che possono essere pericolosi. Il rischio, che comunque è un rischio grosso, il più diffuso è proprio quello che ci sia uno sconvolgimento nell'immagine che può essere vista, magari anche un'immagine di violenza, magari anche un'immagine troppo esplicita o magari qualche testo, perché comunque un bambino di 7-8 anni va a leggere un qualcosa che può un attimo alterare quelle che sono le sue idee o che le idee che deve avere un bambino di 7-8 anni. Parlando sempre di bambini, è un problema tecnologico o è un problema culturale? Cioè sono i genitori che dovrebbero cominciare, non tutti chiaramente, però cominciare a fare attenzione verso questo mondo che sta cambiando molto rapidamente, o esistono delle tecnologie che possono aiutare i genitori? Il problema è duplice, le soluzioni sono duplici, nel senso che intanto il genitore purtroppo a volte è assente nel momento in cui il bambino si sta connettendo ad internet, perché prima magari si lasciava davanti alla televisione un bambino, adesso viene lasciato davanti a internet. Quindi sicuramente è un problema culturale. Non c'è la percezione del pericolo che può correre un bambino pur stando nella propria stanza quando è davanti a un computer. Poi c'è anche un problema di mancanza di conoscenza di quelli che sono i mezzi di sicurezza, di protezione, i filtri che possono essere applicati anche con spese minime, talvolta anche scaricando dei programmi gratuitamente direttamente da internet che possono essere applicati per in qualche maniera limitare i rischi, quindi escludendo determinati siti o siti che contengono parole che possono poi portare in maniera evidente a dei pericoli. Quindi ci dovrebbe essere da una parte l'educazione del genitore, cioè dovrebbe essere educato il genitore a stare vicino a un bambino, a seguirlo nel percorso, perché poi gli puoi stare vicino fino a quando ha 10-11 anni, poi dovrà essere autonomo e a quel punto sarà troppo tardi per cercare di capire dove sta andando, deve già avere un'educazione a priori di vedere e di monitorare come si sta muovendo. Per cui la soluzione è che il genitore stia accanto al figlio e che adotti comunque dei filtri e dei sistemi di sicurezza.